Gentili ascoltatori, sta per iniziare Uno, Nessuno, 100 Milan, condotto da Uno e Nessuno, con la felice partecipazione di Cicciottello Manera. E mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi all'Elisabetta Fusconi Fan Club. Lo trovate su tutti i migliori social. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Chissà se esiste anche il Lorenzo Nespoli fan club, chissà se esiste anche il Miriam Lucchetti fan club, non lo so. In ogni caso siamo qui, cari ascoltatori. Ah, oggi lo dico subito, c'è Carmelo Lauricella in regia. Va bene, andiamo oltre. No. Ho capito. Però, cioè, Carmelo, tu vivi le giornate a Radio 24 in attesa di questo momento. Appena uno dice le parole magiche Carmelo Lauricella, pam, parte subito. Comunque, vabbè. Sono le 9 e 9 minuti, siamo qui cari ascoltatori, 800 24 00 24, il numero per intervenire in diretta, Carmelo Lauricella, e poi 349, sei veramente un disgraziato, 349 238 6666, questo è il numero per i vostri WhatsApp, per i vostri messaggi, Carmelo Lauricella. Allora, basta, lo dico a me stesso, basta. Fermati. Abbiamo tanti temi oggi da affrontare. Avete sentito? Parleremo con l'imprenditore della casa vitivinicola che fa arrivare i lavoratori, le lavoratrici nello specifico, sue storiche dalla Romania. Torneremo sulla questione dei concerti. Avremo ospite il promoter del concerto di Paul McCartney cancellato, Mimmo D'Alessandro, che spiegherà e difenderà l'idea dei voucher, immagino, come rimborso per il concerto annullato. Parleremo della situazione dei teatri bloccati, insomma, tanti temi. State con noi perché si parte. Vai, Carmelo Lauricella. Entusiasmo. Enthusiasm. Ti ho fregato. About the future. Ti ho fregato. Perché avevi pronto l'audio di Conte, io ti leggo nel pensiero, e quindi non potevi sovrapporre all'audio di Conte, che era già lì pronto, gli applausi per Carmelo Lauricella. E quindi sei stato fregato così. Va bene. Allora, ragazzi, vi danno fastidio le immagini della Movida? Le immagini di tutti coloro che, riacquisita un po' di libertà, si mettono a fare gli aperitivi per strada, eccetera. Qui però bisogna mettersi anche un po' d'accordo, come scrive bene, secondo me, ancora una volta Massimo Gramellini oggi in prima pagina del Corriere della Sera, e cioè il titolo è "Tocca fidarsi, tocca fidarsi". Non se ne esce, o si decide di vivere sotto un regime autoritario, oppure si accetta il prezzo insicuro della libertà. Lo stato di polizia liberale non esiste in natura. Da lunedì è in corso questo secondo esperimento sociale. Se il primo consisteva nel chiudersi in casa, questo riguarda gli effetti della riapertura delle gabbie. La libertà personale è passata dalla fase dell'interruttore, spenta, accesa, a quella ben più impegnativa della manopola, in cui i diritti si dosano. Come sta andando? Qualcuno, specie tra i giovani, la sera alza il gomito e abbassa la mascherina. Ma al mondo c'è di tutto, compresa una buona parte di superficiali, irresponsabili, strafottenti. Finché restano una minoranza, si può cercare di dissuaderli piazzando qualche pattuglia davanti ai principali luoghi di ritrovo, ma andare oltre significherebbe instaurare un regime poliziesco. Questo scrive Gramellini. Io sono d'accordo, ragazzi, la libertà è un valore, è importante, non è che lo si può cancellare. Quindi la libertà comporta l'assunzione di responsabilità, e non è che tutti siamo responsabili, però qual è l'alternativa? Fare i cittadini sceriffo, i cittadini che denunciano, lo stato di polizia? Tra l'altro è molto singolare, scrive Gramellini, perché è curioso come la pandemia abbia fatto cambiare verso alla retorica populista. Prima il popolo erano i nostri simili vessati dalla politica, ma da quando si è scoperto che possono contagiarci, i nostri simili sono diventati un pericolo che si chiede alla politica di stroncare. Invece, se si è liberali sul serio, tocca fidarsi nonostante tutto. Ecco, questo "tocca fidarsi" mi sembra la parola chiave. Tra l'altro, devo dire che è il secondo giorno in cui sui giornali si racconta di come siano stati di fatto messi da parte i tecnici, cioè i tecnici sono scomparsi, cioè sono passati due giorni e io non lo so, sfida Luchetti, mi risulta di no, ma c'è ancora la conferenza stampa del 18, terribile, terribile, quella conferenza stampa che ha instillato goccia dopo goccia il terrore negli italiani che si sono poi mitridatizzati, no? A questa goccia che veniva inserita giorno dopo giorno, non si rendevano conto che diventavano sempre più impanicati. Lo snocciolare l'elenco numerico dei morti è una cosa che non avviene in nessun luogo al mondo. C'è ancora questa conferenza? Mi risulta di no, non c'è più. Infatti mi dice, sfida, okay, vedi, non c'è più, in due giorni è cambiato tutto, hanno capito, i tecnici sono andati un po' in sordina, sui giornali raccontano che si lamentano un po', non ci ascoltano più, noi volevamo essere un po' più prudenti, invece la politica ha fatto un passo avanti, i tecnici hanno fatto un passo indietro, di Colao, la task force di Colao, non se ne parla più, il 7 giugno scade il mandato, forse non verrà rinnovato, è cambiato tutto, in due giorni, i tecnici in modo un po' sommesso, i virologi, gli epidemiologi, sui giornali dicono, effettivamente prima ci chiamavano ogni due minuti, adesso insomma si è aperto a questa libertà che comporta assunzione di responsabilità e qualche problema. Comporta anche il fatto che qualcuno abbia alzato i prezzi. Ce lo dite? 800 24 00 24. Io non so come pormi, se il caffè di colpo è passato a 1,20 euro e 1,30 euro. Perché da una parte dico, accidenti, però anche questi commercianti che hanno tenuto chiuso tanto hanno bisogno. Io, guardate, il primo caffè sono arrivato lì, ho lasciato 2 euro, ma perché è mio amico, la mio amico Marco allo spazio Nolo 43, gli ho detto, to, tieni 2 euro. Lui me lo voleva offrire il primo caffè, gli ho detto, ma no, figurati, te lo pago 2 euro, no? I famosi 2 eurini. Ma mi sembra anche giusto, insomma, a cercare di darsi una mano chi può a tutti quanti. Però capisco che i prezzi sono aumentati per molti, molti si arrabbiano, ditecelo all'800 24 00 24. Prima però io voglio partire da questa notizia che ci ha molto colpito fin dall'inizio e ha degli sviluppi oggi molto interessanti. La trovate in una pagina sulla Stampa, in una pagina su Libero. È la notizia ed è la vicenda di Alex Pompa, studente, 19 anni. La vicenda forse la ricordate, Alex Pompa, il culmine dell'ennesima lite familiare in cui il padre aggrediva la madre, ha preso dei coltelli e ha ucciso il padre. È una vicenda di poco fa, pochi un mese fa circa. Questo ragazzo di Collegno, la notizia è ai domiciliari, è fuori dal carcere, andrà a scontare i domiciliari in attesa del processo a casa del suo migliore amico. Tra l'altro io voglio salutare il preside dell'istituto che lui frequenta, che torna con noi. Buongiorno a Rinaldo Merlone, benvenuto caro buongiorno preside. Buongiorno a tutti voi. Perché lei dirige l'istituto alberghiero di Pinerolo, frequentato all'ultimo anno da Alex, che farà la maturità. Ma questo devo dire, anche la ministra Azzolina aveva detto, siamo favorevoli alla maturità di questo ragazzo. Ora anche ai domiciliari, voi come scuola come reagite? Beh, buongiorno intanto, ripeto, saluto a tutti. Beh, direi che parliamo della scuola in generale. È un buon successo per la scuola italiana nella sua missione che ha in Italia, quindi che culmina poi con la figura della ministra Azzolini e che diciamo ha dimostrato questa vicenda sulla quale noi non entriamo in merito sul fatto, ma sull'alunno. Difatti noi come scuola ci siamo sempre espressi collaborando sia con la giustizia che con la difesa per ricostruire la figura di questo studente, che non ha mai creato problemi disciplinari in tutto il percorso dei cinque anni. E la viviamo in senso che danno la possibilità a tutti di accedere a questo esame. Quindi è stata una sinergia all'interno della scuola di studenti, già che il nostro alunno andrà ospite del suo compagno di scuola, di uno dei suoi compagni di scuola, dei professori che si sono attivati, del preside che con loro ha collaborato, che è la rappresentatività giuridica della direzione regionale provveditorato fino al culminare col ministero. Quindi direi che è stato un momento, pur nel fatto spiacevole, ecco, di unità della scuola italiana in questo momento, sì, per di più di Covid-19. No? Ma quindi, anche delle istituzioni tutte, guardi, io leggo oggi sulla stampa, questo però rientra nella vicenda penale, il fratello lo definisce un eroe. È chiaro, qui si entra in dinamiche familiari, sì, noi tragiche, valutiamo tragiche. L'alunno. Certo, gli amici lo definiscono un angelo, nessuno l'ha mai lasciato solo, a cominciare da voi, dalla scuola. Ecco, lei si può immaginare che esame di maturità sarà? Certo, come tutti gli altri, però non è proprio una situazione uguale a tutti gli altri, Presidente. Beh, la domanda che lei pone è interessante. Intanto la notizia che potrà partecipare all'esame è di ieri. Sì. Quindi noi come scuola, che da anni parliamo di inclusione, trattiamo dei problemi di apertura, poi la nostra scuola di Pinerolo già 18 anni fa aveva un progetto con la Cina, di studenti che arrivavano dalla Cina a studiare qui, a diplomarsi e ritornare in Cina, nel settore turistico alberghiero. Quindi un'apertura l'ha sempre avuta. Avevo già seguito io quel progetto, per cui come vogliamo che sia come uno come gli altri in quel momento. Certo. Nel senso che sia inserito, si parla di inclusione, questi anni sono gli anni dell'inclusione, quindi toccherà a noi, al Presidente della Commissione, ai suoi professori, alla struttura scuola, far seguendo anche, ovviamente, consultandoci anche col Ministero, far sì che l'alunno operi, si presenti all'esame come tutti gli altri. Sì, io vorrei sottolineare anche una cosa dal punto di vista dell'inclusione. Ieri appunto i giudici hanno accolto la richiesta, di fatto era stato messa ai domiciliari a casa di un compagno, ma si erano offerte cinque famiglie, famiglie a poter ospitare per gli arresti domiciliari e poi il giudice ha scelto una famiglia. Questo per dire di una solidarietà diffusa anche di compagni, sì, di amici, evidentemente di persone che hanno capito la situazione. È stato molto bello questa unità, questo lavoro condiviso nell'ambito della stessa scuola. Preside, io sono contento, su questa vicenda poi calerà il silenzio dal punto di vista scolastico, poi ci saranno ovviamente i riflettori giudiziari perché ci sarà un processo inevitabile, no? che comunque l'omicidio c'è stato, poi è chiaro che si dice ha agito per difendere la madre e il fratello e questo si vedrà. Certo, una vicenda che lei forse non ha mai sperimentato nella vita da dirigente scolastico, da professore. Non immaginavo di doverla sperimentare. Esatto. In bocca al lupo. Si affrontano le situazioni che si presentano nella vita. In bocca al lupo a lei, ad Alex Pompo ovviamente nella vita e alla scuola. Intanto grazie per essere tornato con noi, ripeto, Rinaldo Merlone è il dirigente scolastico preside dell'Istituto Alberghiero Arturo Prever di Pinerolo, frequentato da questo ragazzo che ha ucciso il padre per difendere dalle liti continue, dalle violenze, la madre e il fratello, e farà l'esame, il giudice ha concesso gli arresti domiciliari e che passerà questo ragazzo a casa del suo migliore amico per prepararsi per l'esame di maturità. E io dal primo giorno ho detto mi sembra una cosa assolutamente giusta. Ora però voglio saltare su un altro tema che negli ultimi giorni ha catalizzato l'attenzione politica quando si è parlato di regolarizzazione, di migranti, di lavoratori stagionali. Lo facciamo attraverso l'iniziativa di un imprenditore, anche noto per i suoi vini, insomma i suoi Gewürztraminer o i Pinot sono celebri, Martin Foradori Hofstetter, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno. Titolare ovviamente della tenuta omonima Hofstetter, un marchio conosciuto, siamo a Termeno, Bolzano caro imprenditore, caro Hofstetter, ci deve spiegare questa vicenda. Lei ha organizzato a sue spese un jet privato, un aereo, per portare le lavoratrici, che mi pare di capire sono sue lavoratrici storiche nella sua tenuta, dalla Romania, per la verità dall'Ungheria, dove erano bloccate, alla sua tenuta sfruttando uno di quei corridoi consentiti. Così è andata in estrema sintesi la vicenda. Quanto, posso chiederle quanto le è costato questo? Ce lo vuole dire? No, di cifre non si parla, anche perché è stato un gentleman agreement di questo mio, chiamiamolo, conoscente, che ha capito la situazione precaria nella quale mi trovavo e si è offerto a dare una mano a risolvere questo io lo chiamo imminente problema che avevo in vigna. Che è la potatura delle viti, che va fatta adesso, cioè. Sì, praticamente il termine tecnico è la scacchiatura, molti la chiamano anche potatura a verde, è praticamente il lavoro che ora vengono tolti quei tralci di vite che sono superflui e che influenzano poi la qualità dell'uva e del vino di quest'anno, ma anche poi la potatura invernale, la prossima potatura invernale, perché quei tralci che rimangono ora segnano poi la via del futuro, dei prossimi anni della vigna. Certo. Ha seguito tutto il dibattito politico, qualcuno potrà dire ma perché non ha assunto degli italiani, perché non ha regolarizzato, non so se già si può fare tecnicamente, degli stranieri, insomma ci spieghi perché si è affidato a queste persone che lei conosce da anni. Beh, anzitutto devo dire che è tutto in regola e non c'è nulla di illegale in questa operazione e nel lavoro che stanno facendo queste mie collaboratrici. Poi mi lasci fare anche una polemica, ma dov'era tutta la gente, tutti gli italiani l'anno scorso, 2 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa? Ci sto anche a dire che questo è un lavoro che purtroppo la gente locale del posto non sta più facendo da anni, così che noi ci siamo dovuti avvalere del lavoro della manodopera che viene dall'estero. Poi, come lei lo ha già detto, queste sono collaboratrici storiche che stanno facendo questo lavoro già da oltre 15 anni, è una squadra che funziona come un orologio svizzero alla quale affido, lo dico così, il potenziale storico delle mie vigne, ma soprattutto affido la longevità futura delle mie vigne. Non è un lavoro che si impara dalla mattina alla sera, ma in tanti anni di lavoro. Beh, e da questo punto di vista c'è tutta la storia di un imprenditore che dice metto le mie vigne, che sono il mio patrimonio, in mano a persone, non al primo che passa, non al primo che si improvvisa, ma a mano a persone che conoscono benissimo questo patrimonio, lo sanno valorizzare. È interessante la sottolineatura che lei fa sugli italiani. Molti dicono beh sì, effettivamente molti italiani non c'era il coronavirus e quindi fino all'anno scorso non erano nelle condizioni anche disperate talvolta di cercare un posto di lavoro, di tornare alla terra, come si suol dire, perché lei dice fino all'anno scorso non ne ha visti di italiani in coda a chiedere un lavoro. Sì, come ho detto, io adesso non voglio innescare nessunissima polemica, ben accetti tutti gli italiani, i locali qui del posto, però devono anche saper fare il lavoro e purtroppo io 2 settimane fa mi sono visto in condizioni di trovarmi la barriera, il confine ungherese chiuso, un gruppo di persone importanti che stavo aspettando e non avevo nessun'altra possibilità. Sì. Come faccio io a cambiare? Come mai l'Ungheria ha chiuso, ha saputo perché se è tutto in regola, perché l'Ungheria aveva chiuso i confini? È una questione politica? Guardi, io oramai non me ne faccio più una ragione, non so quante telefonate sono state fatte dalla provincia di Bolzano a Roma, alla comunità europea, eccetera, eccetera, eccetera, tutti dicevano altre cose, chiamavi l'ambasciata a Bucarest, ti diceva A, chiamavi Vienna perché dovevano passare attraverso l'Austria, ti diceva B, non si capiva più nulla. Ci sarà stato quella sera, quel pomeriggio, ci sarà stato un poliziotto alla frontiera ungherese che ha interpretato a modo suo una legge, sì, un decreto o quel che sia, e comunque le mie signore con il pulmino hanno dovuto indietreggiare e tornare a casa. Certo. Senta Hofstetter, qualcuno dice che forse la scelta politica giusta, non è il suo lavoro fare il politico, la scelta politica giusta non era quello del decreto regolarizzazione, ma di fare come altri paesi europei e fare cioè questi corridoi che permettono di avere i lavoratori stagionali anche da realtà come nel suo caso la Romania. Lei da imprenditore, proprio in maniera pragmatica, qual è la linea secondo lei più redditizia? Corridoi per lavoratori stagionali oppure regolarizzazione? Beh, guardi, io credo che importanti sono le due cose. La regolarizzazione ovviamente è importante, quella dei corridoi, abbiamo visto altri stati europei che l'hanno adattata in 24 ore, hanno aperto questi corridoi verdi. Ci sono addirittura in Germania, in Austria, ci sono state le associazioni di settore che hanno organizzato dei voli charter da 250 persone per far arrivare gli stagionali. Oltre al fatto che adesso ho sentito ieri che l'Italia ha attivato la cosiddetta quarantena attiva dopo un mese che in Germania e in Austria c'era già. Quarantena attiva significa che questi stagionali arrivano, possono lavorare nei campi, nelle vigne, tra i meleti, devono rimanere isolati dall'altro personale, però possono lavorare fino alla fine della quarantena. Invece le mie signore se ne sono state lì, belle ferme, due settimane nell'appartamento aziendale che hanno a disposizione a fare nulla prima che potessero iniziare col lavoro. Insomma, dice, ci sono paesi che in 24 ore hanno risolto e paesi che no. Chissà perché sono sempre citati la Germania tra i paesi che in 24 ore risolve le cose. non lo so. E l'Austria anche in questo caso. Però, per carità, no, mi viene in mente adesso la frase, non c'entra niente, di Zlatan Ibrahimovic, il calciatore, che dice: ecco, bisogna fare come in Germania, loro dicono e fanno, ed è ripreso il campionato di calcio. E qui stiamo discutendo da un mese e forse il 28 maggio si deciderà se e quando ripartirà il campionato italiano. Non c'entra niente, però insomma la sento sorridere, ma insomma è una riflessione generale, ecco, che si può no, fare. Sto sorridendo anche per il fatto che adesso vedremo se la Germania e l'Austria sono veramente tanto bravi, vediamo se finalmente aprono le frontiere per far arrivare i turisti nella nostra bella Italia. È questo sì, va bene. Io intanto la ringrazio per questa testimonianza, ripeto, Martin Foradori Hofstetter, titolare della tenuta omonima a Termeno, provincia di Bolzano, ha affittato un jet personalmente perché non sapeva come far arrivare dalla Romania le 8 collaboratrici storiche per questa fase importante di trattamento delle vigne che va fatta in questo periodo, altrimenti il rischio è di mandare a monte il patrimonio vinicolo. Allora, che dire, cari ascoltatori, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Se volete chiamarci è il vostro momento, 800 24 00 24, potete intervenire su quello che volete, sull'aumento dei prezzi, sulla movida, sulla tranquillità che avete più o meno, sulla libertà che amate o la libertà che secondo voi andrebbe ristretta. Siamo qui con i temi affrontati, tra poco arriva anche Granito Manera. State ascoltando un programma offerto da... Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. La mia parrucchiera da 14 euro taglio e piega a 17. Sempre fatturato. Buongiorno. Ciao Milan, ieri pomeriggio, dopo quasi 3 mesi, finalmente primo cappuccio di soia al bar. 1,60 euro, mi è sembrato prezzo giusto. Certo, non c'erano brioche, non c'erano biscottini, tutte quelle cose squisite che c'erano prima, magari si devono ancora organizzare. Basta dare la colpa ai giovani e ai loro aperitivi. Io ho un negozio e tutto il giorno devo dire agli anziani di mettersi la mascherina sul naso e sulla bocca, perché ce l'hanno sul collo, sulla fronte, ovunque, e devo dirglielo a loro: per favore, basta con questi aperitivi. Beh, effettivamente anche gli anziani, categoria che Leonardo Manera dispiace che non sia qui adesso, ma disprezza totalmente, mi spiace anche per il modo in cui lui li tratta, perché in realtà sono una colonna disprezzarli, eh? Non posso disprezzarli. Ciao Leo. Buongiorno, non posso disprezzare gli anziani facendone parte anch'io. Io ho superato la soglia fatidica dei 50, dopo 50 si è nella terza età. Io sono un anziano, 53 anni. Dai. Però ha ragione, secondo me, l'ascoltatore. Tutti giovani, però non è che gli anziani a volte sono un po' testa dura, fanno fatica ad adeguarsi, non è che rispettino, sono magari un po' meno flessibili ormai, no? No? Sì, perché critichi così gli anziani, Leonardo? Non ho capito. Dovresti difenderli. Io le difendo perché difendo me stesso, però è vero che spesso sono quelli che si vedono di più in giro con la mascherina posizionata male, molto testardi, sul collo. Testardi. Posso dire una cosa sola, veloce, rapida, no? sulla vicenda di Alex Pompa, il ragazzo. Anche due, certo. Che non vorrei che si sdoganasse l'idea della giustizia fai da te, perché tutta questa vicenda è un po' un fallimento dello Stato, nel senso che quando ci sono problemi di quel tipo magari dovrebbero intervenire le forze dell'ordine senza arrivare a un figlio che uccide il padre e poi viene visto in modo... Insomma, si tratta pur sempre di una cosa grave e forse avrebbe dovuto rimediare prima lo Stato, prima che il figlio arrivasse a uccidere il padre. Io la vedo così, ecco. Devo dire che no, ma hai ragione. Devo dire che almeno leggendo dai giornali, nessuno poi lo conosce bene. Non pare non ci fossero stati grandissimi segnali all'esterno, cioè che tutto fosse tenuto abbastanza nel terrore familiare. Ecco, forse sarebbe stato il caso prima di fare una denuncia. Mi permetto sommessamente di dire questo. Sì. No, sicuramente ci sarà un processo e non è che adesso viene definito esatto come colui che ha fatto la cosa più giusta del mondo, ripeto, non giudico, ha fatto questo, ci sarà un processo, ci sarà anche probabilmente una condanna, forse mitigata da tutte queste vicende, in ogni caso staremo a vedere. Caro Leo, sentiamo gli ascoltatori, sai che dopo parleremo molto di teatri, quindi sarai contento, poi torneremo sulla vicenda del concerto di Paul McCartney, avremo il promoter di questo concerto che ci spiegherà come cosa intende fare con i voucher, insomma parleremo un po', no, perché anche oggi ho letto un articolo e anche negli articoli siete nelle ultime righe, mi ha colpito questa cosa, scusa se sorrido, cioè le ultime 5 righe di un articolo del Corriere della Sera diceva e poi infine il mondo dello spettacolo è pronto a manifestazioni, scioperi, proteste, ma anche nell'articolo siete nelle ultime 3 righe. Cioè proprio, quindi non fa, ormai siamo non considerati così, siamo gli amici artisti che vi fanno divertire, però si sa che il divertimento arriva alla fine, però il divertimento è parte integrante della vita, no? Quindi sì. Pensate come sarebbe grigia e amara la vita senza in qualche forma di divertimento, nel senso anche etimologico che hanno citato molti della parola. Che tanto tu dici già lo è, amara. Comunque dopo torneremo anche sulla iniziativa che avete lanciato, un pacco per lo spirito. Sentiamo Anna Rita, ci chiama da Roma. Buongiorno Anna Rita. Buongiorno a voi, buongiorno. Eccoci. Grazie di farci compagnia ancora. Grazie. A lei. Io mai avrei pensato di anelare più ad una bottiglia di alcol che al mio profumo preferito, ma ieri mi è successo. Ah, di alcol per disinfettarsi. Alcol per disinfettare, sì. Dopo tanti tentativi, ieri il negozio aperto, diciamo che aveva riaperto solamente ieri, sono passata e ho visto 9-10 bottiglie di alcol, un miraggio. Ah, sono entrata per comprarlo perché diciamo ci siamo organizzati in famiglia per non uscire tutti. Chi esce compra anche per gli altri, tipo le prendo tutte per mia madre, mia sorella, i miei amici e quant'altro. Tutte. Perché non quindi si adesso trova. Non ci sarà, quindi non ci saranno più adesso, giustamente, no, in quel nel negozio. Senso che ho provato, sono entrata e ho chiesto quanto veniva una bottiglia. Io le dico che questo negozio è rimasto chiuso per tutto il lockdown, cioè da marzo ha riaperto ieri, quindi sono cose che aveva all'interno già, non è che sono arrivate. Sì. E quelle bottiglie costavano tra gli 80 centesimi e un euro, ma proprio a dire tanto, e voleva 5 euro ogni bottiglia. mi sono veramente arrabbiata. Quindi, mi sono arrabbiata, ho detto non è possibile. E nonostante ciò ne ha comprate lo stesso? No, assolutamente no, mi sono rifiutata di comprarle perché mi sembrava veramente troppo. Cioè il fatto che le avessi avute già dentro, pagate non so 20 centesimi, voleva proprio approfittarsi di questa situazione brutta nella quale viviamo tutti, e questo mi è molto sono situazioni un po' diverse in effetti. Cioè se io vedo, non so, la piega che ci diceva l'ascoltatore prima, da 14 a 17 euro, io posso capire insomma che in questo momento un artigiano abbia bisogno anche di recuperare un pochino di denaro, basta che sia fatto in maniera trasparente, anche spiegandolo ai clienti: guardate, ho aumentato 3 euro o i 20 centesimi del caffè. Però effettivamente quello che ci racconta Anna Rita, cioè far passare da 80 centesimi a 5 euro l'alcol, è un po' Anna Rita, una speculazione. C'è ancora Anna Rita? Sì. C'è ancora Anna Rita. Anna Rita, lei qual è la cosa che disinfetta di più? La cosa alla quale tiene così quasi in modo maniacale, che disinfetta da mane a sera? C'è una cosa? Le maniglie delle porte, una volta che siamo entrati, vengono assolutamente disinfettate. Le maniglie sono per me diventata un'ossessione. E non riesco, e anche la frutta, la verdura, non riesco più a mangiarle se non sono disinfettate in ammuchina almeno mezz'ora. Questo è un bel problema. Io sa che ho questo problema. Per esempio, io ho il problema della frutta e la verdura. Mettiamo che uno le disinfetti con la mucchina, ammettiamo. Ma poi la posso mangiare. Fa schifo. Ma poi lei la mangia direttamente e sa di ammuchina, oppure le sciacqua con l'acqua? Le sciacqua assolutamente. E non le resta sempre asciugare. Quel sapore, quel retrogusto di ammuchina? Assolutamente no. Ma tolga la buccia, la buccia. Se alle pesche tolgo la buccia, le mele tolgo la buccia, mi rimane qualcosa. Però Anna Rita, le maniglie, giustamente è rimasta male, mi sembra giusto. La ringraziamo. Andrea Milano da Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Aspetti che tolgo il viva voce. Grazie. Vada. Ok. Allora, c'è anche l'eco della radio che deve spegnere. Fatto tutto. No, prego, adesso si sente. Due note semplici. Allora, una è, sentendo anche quello che diceva la signora poc'anzi, gli italiani sono stati terrorizzati. Il messaggio che è arrivato all'estero è di Italia al disastro. Le regioni sono ancora chiuse una con l'altra, però qualcuno dice che dobbiamo far venire i turisti. Ma quando mai verranno? Su questo secondo me Di Maio ha fatto bene a fare questo appello. Dobbiamo, cioè, in previsione, cercare di spingere gli stranieri a venire. Non verranno adesso, verranno a giugno, a luglio, ad agosto, no? Cioè lei non trova giusto che, in questo devo dire, il ministro degli esteri, che qua magari critichiamo, dica: tedeschi, venite da noi. Non lo trova una cosa giusta? Assolutamente, ma dobbiamo anche creare delle condizioni per cui, quando gli italiani vedono l'Italia, magari leggono dei giornali, vedono delle trasmissioni. Dal 3 giugno poi si viaggerà da una regione all'altra, cioè apriranno le frontiere, poi si viaggerà lentamente, diciamo a 15 giugno si spera di poter accogliere tutti. Speriamo. Io leggo un po' la stampa estera, quello che succede adesso. L'approccio terroristico che c'è stato in Italia, anche in situazioni ha spaventato simili, un po' tutto. Non c'è stato. La seconda cosa che volevo dire brevissimamente è che io da sempre mi occupo di analisi dati, e io spero che i nostri tecnici analizzino i dati migliori di quelli che poi arrivano al pubblico, perché il modo con cui vengono dati i dati attraverso la stampa, sono dati assurdi, inutilizzabili. Per dire, per esempio, ce ne dica uno. Ogni giorno dicono: oggi sono aumentati i contagi, sono ridotti i contagi, sono aumentati i contagi, sono ridotti i contagi. A Milano, in Lombardia, praticamente sono settimane che ogni 100 tamponi trovano 3 positivi. Poi i numeri salgono, scendono in base al numero dei tamponi che fanno. Per cui sì, se certo. domani la Lombardia facesse 1 milione di tamponi, troverebbe tranquillamente 30.000, guardi, 30.000 c'è, positivi. C'è un dato, le cito questo, oggi l'ho trovato sul Corriere di Milano. Sapete che adesso c'è la corsa al test sierologico, anche se gli esperti, gli epidemiologi dicono non serve a nulla, il professor Lopalco dice non fatelo, buttate dei soldi, eccetera. Vabbè, la gente corre a fare il test sierologico anche privatamente in questi centri. E al centro Sant'Agostino, che è uno dei più diffusi a Milano, il 25% su 1000, quindi 250 sono stati trovati positivi secondo il test sierologico. Quindi Leonardo, 25%, se lo ma si facesse si è su detto un che... milione certo. di milanesi, no, fate i calcoli. Si è sempre detto che l'epidemia è molto più diffusa dai casi ufficiali che venivano riportati quotidianamente con i numeri, sì. insomma. Vediamo un po'. In ogni caso, grazie Alessandro, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Sì, brava la Germania, ma abbiamo capito in questa epidemia che la Germania fa un po' quello che vuole. 7 per il cappuccino di soia, te meriti 16 euro, non 1,60. Ciao ragazzi, sono Alberto dalla provincia di Bergamo. Volevo ringraziare personalmente Leonardo Manera e tutti gli altri perché stanotte ho ricevuto il mio pacco per lo spirito. Grazie mille, mi ha fatto molto piacere. Bello! Quindi non è il solito millantatore, cioè saranno non i è colleghi un pacco in e gamba. Basta. In gamba i colleghi, lui sarà un millantatore. No, anzi, no, ma dopo vorrei precisare che lo manderemo una volta alla settimana e di regola il martedì verrà inviato, bene, così come bene. Alcuni si erano lamentati, no, perché dobbiamo mettere insieme le cose, eccetera. Sì, devo dire che io non ho detto niente sul cappuccio di soia, ma anch'io, per rispetto, i gusti sono gusti, ma anch'io l'ascoltatrice il cappuccio di soia. Senti un po' però qua, Leonardo, sai cosa succede in Svizzera invece? Senti qua, il grande sondaggio del Corriere del Ticino. Domanda ai lettori, cosa farai appena riapriranno i confini con l'Italia? 1. Andrò a fare la spesa, ma perché non te la fai in Svizzera? Ho capito. 2. Finalmente farò visita a qualcuno a cui tengo, va bene? 3. Esco a mangiare sushi o pizza, ma non ce l'hanno le pizzerie di Svizzera. 4. Non ho necessità di andare oltre confine. Il sondaggione del Corriere del Ticino. Ma, vabbè. Sai che quando amici tu superi svizzeri, quando superi il confine da Chiasso andando verso la Svizzera, incontri subito un supermercato che secondo me è di un'amarezza totale, forse è per quello che gli svizzeri vogliono venire, non ricordo come si chiama, ma subito dopo c'è questo supermercato che visivamente così ti mette grande tristezza, quindi forse è per quello che tristezza. Sì, forse è per quello che gli svizzeri preferiscono venire magari a Como, così per il dire. Sondaggione del Corriere del Ticino. Mi provocate, mi state provocando. Lo sapevo. Sento parlare di quel supermercato che mi incontri sulla destra dopo Chiasso, io non posso non impossessarmi di un microfono. È il Ser Fontana, Leo, grandissimo supermercato, no, è un centro commerciale, il Ser Fontana. Sai quando com'è? Si chiama signor Fontana romanesco. Sarebbe il surf Fontana. Buongiorno, buongiorno Lino, buongiorno Leo. Oggi ho un buon umore da riaperture. Sì, il sondaggione del Corriere del Ticino. L'ho letto, mi ha assolutamente subito colpito e tra l'altro ero assolutamente interessata a sapere quale fosse la voce più votata. E niente, volete saperlo anche voi? Ve lo svelo. Sì, la maggior parte dei lettori del Corriere del Ticino ha votato con, diciamo che prevale lo spirito nazionalistico un po' di facciata tipicamente elvetico, cioè? E dice, aspetta che scusami mi è sparita la pagina, dice non ho necessità di andare oltre confine. Sì. Però sì, così converrai con me che quel centro commerciale sembra un po' un residuato di un day after, cioè quello che rimane dopo un'esplosione, non so, ti mette questo senso di tristezza, no, sbaglio. No, io devo purtroppo darti ragione, è vero. Ecco, nel sentite senso... con che tono mesto deve parlare male della Svizzera. No, cioè, lo ricollego a... abbassato gli occhi. Lo ricollego a dei ricordi d'infanzia, perché siamo sempre stati molto snob in famiglia e ricordo che ci passavamo regolarmente e mia madre ha sempre detto lì non ci mettiamo piede. Sì, per cui non sono mai entrata, però effettivamente. Comunque, insomma, la verità è che insomma, gli svizzeri quindi non hanno necessità, questo è il sondaggio. Ma non è vero, ma non è vero, ma lo dicono così per spirito patriottico. Ma perché mangiare un sushi e una pizza in Italia? Cioè, perché non avete ma te lo spiego benissimo, perché un sushi a Como all you can eat mi va via con un 20 euro. In Svizzera almeno un 60 euro e hai bisogno, ecco. Cioè, capito, una grande capito. Discrepanza. 60 franchi. Franchi, ovviamente. Paga, e poi è strano che nel sondaggio non abbiano messo dentro centri estetici e parrucchieri, perché è pieno di svizzere che vanno a Como. Svizzere. Nota svizzere, Leonardo, svizzere, ad accarezzare la propria vanità. Non lo so, sugli svizzeri dovrei indagare. Non ho... Bravo, un buono spunto. Approfondirò. Va bene. Prossimo sondaggio il Corriere del Ticino. Vabbè. Svizzeri o svizzere dalle statistiche. Però guarda che ha creato un sacco di click, per cui ci hanno visto giusto. Ci hanno visto giusto. Hanno catturato del traffico. Vabbè, torno ai miei lavori e torno a essere utile. Ciao. Leo, a te. Allora. Leo. Allora, in questi mesi molti hanno detto che dopo il coronavirus niente sarà più come prima. L'evidenza mi pare che li stia smentendo. È bastato passare dalla fase 1 alla fase 2.0 e poi a quella di adesso, la fase 2 dolcificata, cioè un po' più o meno amara, per verificare senza possibilità di smentita che le nostre caratteristiche, anche e soprattutto le peggiori, sono ancora tutte lì a farci compagnia. Non siamo cambiati, siamo come prima, forse anche peggio. Allora mi sono chiesto come mai c'è questo desiderio di dire più e più volte che niente sarà più come prima. La mia risposta è che tutti noi probabilmente amiamo essere testimoni di qualcosa di unico nel bene e nel male, di importante, di qualcosa da raccontare che sia condiviso da tutti, appunto, come un evento unico. Tutti noi, tra qualche anno, quando del virus non ci sarà più traccia, ricorderemo questi mesi con dolore, ma anche con la consapevolezza che probabilmente è stato qualcosa da raccontare anche alle future generazioni. I miei nonni avevano la guerra nei loro ricordi e anche mio padre mi raccontava di quando andava con la bicicletta da Salò fino a Mantova solo per cercare un po' di farina per mangiare e tanti altri aneddoti che alla guerra erano legati. Mia madre mi narrava delle sirene che scattavano quando in cielo di notte passavano gli aerei a bombardare. Avevano vissuto quel periodo come centrale nelle loro vite ed erano ben consapevoli di essersi trovati in mezzo a un evento drammatico e importante, perciò lo rievocavano spesso. Le generazioni successive italiane, fortunatamente, sono state libere da guerre e gli argomenti di conversazione sicuramente negli anni sono stati più frivoli. Ricordo anni fa di essere uscito con una ragazza che per tutta la sera mi parlò di un callo che era comparso su un dito. Lei collaborava con una sarta e a forza di cucire le era spuntato questo callo. Era diventato l'argomento principale di conversazione la serata. Io, lei e il callo. In un'altra occasione, una ragazza mi parlò abbondantemente, in modo drammatico, di un brufolo che le stava spuntando proprio in mezzo alla fronte e per lei rappresentava un problema, visto che la mattina dopo avrebbe dovuto fare una specie di servizio fotografico, io, lei e il brufolo sulla fronte. Io stesso per anni ho raccontato con dovizia di particolari di quando mi ruppi la milza giocando a tennis, suscitando ogni volta incredulità, anche se devo dire che forse non era l'argomento migliore per fare colpo sulle ragazze. Poi ci sono coppie di ragazzi che al primo appuntamento, dopo i consueti scusate, pensavo al callo. Vabbè. Ci sono coppie di ragazzi che... Io al brufolo penso un po', va bene. Ci sono coppie, ci sono di ragazzi coppie che, invece. Di ragazzi che al primo appuntamento, dopo i consueti convenevoli, si chiudono in un silenzio drammatico, non avendo niente da raccontare. Stanno lì a cena in silenzio, se il cameriere non è veloce a portare i piatti, la serata naufraga in sguardi interrogativi senza parole. Si legge il menù, ci si guarda un attimo, poi si torna a rileggere il menù come se fosse la Divina Commedia. Poi quando arriva alle portate uno chiede all'altro com'è, buono, poi si torna al silenzio. E alcuni dopo queste esperienze arrivano perfino masochisticamente al matrimonio. Il coronavirus ci ha purtroppo dato qualcosa da raccontare, resterà nella nostra esperienza di vita e per molti sarà presente in tutte le conversazioni, sarà il jolly da pescare in mancanza d'altro quando la conversazione langue, ma bisogna stare insieme al tavolo. E anche se magari saremo tutti insieme a fare un assembramento al tavolo dell'happy hour, potremo dire: dopo il coronavirus niente è stato più come prima, neanche il callo. Neanche il brufolo, va bene. C'è David da Roma, buongiorno David. Pronto? Sì. Eccomi, buongiorno, mi scusi che stavo un attimo in cassa. No, io dicevo, sono ristoratore e sì, che i prezzi non aumentano in base alla nostra scelta, ma in base a un calcolo ben definito che si chiama business plan. Se prima riuscivo a fare una carbonara a 10 euro è perché avevo un tot posti e tutto il resto. Ah, certo. Oggi sto costretto a mettere una carbonara a 15 è perché il mio business plan mi dice di farla a 15. Cioè, questo sì, è fatto. Perché sono diminuiti i clienti. Non è dato da un risveglio. È dato da un calcolo ben definito. E questo è importante che la gente deve capire. Però David, cioè, sì, è giusta la spiegazione dal punto di vista economico, il dato di fatto che al cliente che torna la carbonara costa 5 euro in più, questo insomma, poi... Che nessuno calcola, c'è anche un altro effetto, che il takeaway però costa anche di meno, perché prima a fare takeaway eravamo 10 persone, oggi a farlo siamo molti di più, tanto è vero che oggi il takeaway invece di costare di media, non so, faccio esempio, prima io facevo una carbonara a takeaway a 9 euro, oggi sono costretto a farla 6 perché la fanno tutti quanti, quindi in realtà come va, ma i clienti tornano, c'è stato anche un calo, che me ne daresti un'altra busta per favore? Stupendo, i clienti tornano, David? Stanno tornando? Sì, allora devo dire di sì, anche se poi io ho poca, come si dice, scusate che io nel frattempo sto a fare spesa, non so se sentite. Sì, no, è stupendo. Cioè, intanto sta fatturando, è bellissima questa cosa. Fattura in diretta. Ciao, grazie. Ecco, no, ho finito, è perché stavo, è come qua. Chi ha comprato, allora, dicevo, chi ha comprato questo cliente? No, ho comprato totani, calamari, gamberoni e devo dire, aspetta, tutto questo anche l'aumento della spesa, perché io stamattina sono andato a vedere. Certo. I totani stanno 19 euro, io pagavo 15, mo capisco che ci saranno meno pescherecci in giro, però Davide Davide è straordinario, aspetta, devo andare al giornale radio, magari lo recuperiamo dopo, se è in cassa ancora, magari 10:15, 10:30, voglio sapere alle 10:30 come è andata la mattinata, teniamocelo per dopo alle 10:30. Davide da Roma, se fattura ancora, mi interessa il prezzo dei totani, adesso il giornale radio. Ciao, Vincenzo da Palermo, I love my radio. Ciao, sono Riccardo da Genova, I love my radio. Ciao, sono Corrado da Roma, I love my radio. Gli italiani amano la radio. Il 71% la ascolta anche da casa. L'ascolto da supporti digitali è aumentato del 24%. E per il 59% degli italiani la radio è relax e allegria. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia. Bontà, convenienza e tradizione. Uno, nessuno, 100 Milan. Buongiorno, allora riguardo al discorso giovani e anziani, posso dire, e lo dico con cognizione di causa in quanto faccio l'autista a Roma, autista di mezzi pubblici, che quando faccio una linea in zone dove prevalentemente abitano persone anziane, non so, mi viene in mente Monteverde, è una vera e propria tragedia. Per quanto riguarda le mascherine, è una vera e propria tragedia. Leonardo, grazie per il pacco dello spirito, però alle 11:30 io dormivo sul divano, mi hai svegliato. Io non sono lento pede come te, la mattina mi sveglio presto, mannaggia, la prossima volta per favore ore 10:30 di mattina. Grandissimo, grazie, ciao Marco. Ciao a tutti cari ascoltatori, io sono Mattia Milan e siamo qui con la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Ora passo la parola al mio collega Alessandro Milan. Vabbè, grazie collega. Grazie collega, va bene, la seconda ora. Capito l'entopede, Leonardo Manera? Un po' più tardi con questi pacco per lo spirito, un po' più presto anzi, hai svegliato l'ascoltatore. Ma perché lui ha voluto guardarlo subito, poteva guardarlo tranquillamente stamattina con calma. Ma avrà un cicaleccio che lo avvisa della mail, avrà fatto un bidi bip e tu lei stava dormendo e l'hai svegliato. Vabbè, vabbè, allora cari ascoltatori, come avete capito è la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Dobbiamo tornare sul tema che abbiamo affrontato ieri. Siamo stati, devo dire, sommersi dalle mail di appassionati di Paul McCartney che volevano vedere, era il sogno un po' di tutti, Paul McCartney suonare a Lucca e Napoli. E invece insomma non potranno perché è stato annullato il concerto. Credo che portare Paul McCartney in Italia fosse anche il sogno del promoter di Mimmo D'Alessandro, che insieme a Adolfo Galli ha fondato D'Alessandro e Galli. Mimmo D'Alessandro, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a tutti. È vero che anche lei è un fan di Paul McCartney? Penso proprio di sì. Lavoriamo con lui dal 1989. E la storia di Napoli e Lucca era un sogno che io pure da 5 anni lavoro su questo progetto. E questo signore molto democratico chiamato Covid-19 me l'ha interrotto, ma rovinato il sogno, perché dopo 5 anni di duro lavoro per convincere a fare queste due date, perché come si sente io sono di origine napoletana, sì. Però produciamo questo festival da 23 anni a Lucca, dove ci sono stati gli Stones, c'è passata la storia della musica, ma per chiudere il cerchio mancava Sir Paul McCartney. Finalmente avevamo coronato il sogno e questo signore Covid ha detto di no. Senta, D'Alessandro, qui c'è, lei deve dare ovviamente mille risposte, so che anche voi siete sommersi. Devo dire, tralasciamo gli insulti non vanno mai bene, gli insulti sono sbagliati, però la gente si fa questa grande domanda: perché dare un voucher se uno voleva vedere Paul McCartney, non è che vuol vedere qualcun altro suonare, seppur stimabile, vuole vedere il concerto di Paul McCartney, il concerto non c'è, vuole indietro i soldi, le sembra così assurda come richiesta? Assolutamente no, non è assolutamente assurda, però non l'abbiamo mica fatto noi questa cosa, c'è un legislatore che ha fatto questa regola, non è stata la D'Alessandro e Galli o qualcuno dice che sia filiera. un'opzione, qualcuno ci ha detto c'è l'opzione di dare o il voucher o restituire i soldi. Non è così. Non è assolutamente così, come ti posso dire, come noi per quando abbiamo prenotato tutti gli alberghi, sia a Lucca che a Napoli, per gli alberghi i soldi indietro non ce li danno, ci danno un voucher spendibile in 18 mesi. E non è che mi sto arrabbiando, cioè mi dispiace, come i biglietti aerei, uguale, la stessa cosa. Però lei l'aereo potrà tornare a riprenderlo, l'albergo eccetera, concerto di Paul McCartney è un unicum, non è sostituibile con niente. Chi ama la musica dovrebbe sostenere questa cosa, perché è una filiera che dà lavoro a 410.000 persone, ragazzi, attenzione, questo il legislatore ha fatto questa cosa che oltretutto noi non abbiamo chiesto, sottolineo, non abbiamo chiesto, ha fatto questa per tenere in piedi una filiera molto importante del mondo invisibile, perché noi siamo invisibili, perché a noi non abbiamo un contributo da nessuno. Sì, questo è vero, però sostenere la filiera è giusto, però sì, uno che ha speso 1000 euro, 1500 euro, perché i prezzi erano anche alti, chi ha portato una famiglia, un ascoltatore ieri ha detto ne ho presi 3 biglietti per 2200 euro, ma non cioè perché questa soldi. Persona? Beh sì, no, non li perde, ma questa persona magari non interessa vedere un altro concerto. Ma intanto la speranza non è mai finita, perché speranza dopo 5 anni che io ho lavorato su questa cosa per portare, scusi, do del tu perché non mi riesce. Sì, vabbè. Mi sento familiare perché sono in macchina, ascolto sempre la tua trasmissione, quindi do del tu. potrebbe tornare l'anno prossimo, insomma, Paul McCartney. Però appena, sai qual è il problema, a mio parere? Nessuno si sa quando si inizia. Al momento, a bocce ferme, come si dice volgarmente, a bocce ferme, noi vediamo che succede. E sicuramente io non mi arrendo al fatto di non... Che non ritorna in Italia, pure perché lui è molto ci teneva anche lui a fare soprattutto Napoli, sì. Quindi non è detto. Vabbè, Mimmo, c'è Leonardo, aspetta che Leonardo Manera vuole farti una domanda. No, dicevo che io sono il primo che ciao buongiorno, sono il primo a dire che bisogna sostenere tutta la filiera dello spettacolo, ma in questo caso secondo me lo Stato sostiene sì la filiera, però coi soldi di chi ha pagato il biglietto, insomma, per interposta persona, diciamo, è questo che suona un po' strano forse. Sì, esatto, dovrebbe essere lo Stato, biglietto. Piuttosto uno dice esatto, lo Stato ci rimborsi, ci aiuti con questa cosa, però io ho un'azienda di 30 persone, 30 stipendi, dove sto anticipando la cassa integrazione, non abbiamo ricevuto un centesimo di aiuto da parte di nessuno. Stiamo anticipando la cassa integrazione. Noi siamo invisibili. E su questo noi siamo dalla tua parte totalmente. Certo. Quello che chiede Leonardo è perché ci deve, come dire, invece che lo Stato assente, devono sopprire delle persone che hanno comprato dei biglietti. Sono totalmente d'accordo con Leonardo. Però ci tengo a sottolineare che noi non abbiamo chiesto questa cosa. E non siamo, poi noi abbiamo una storia, perché io faccio questo lavoro da 45 anni con grande successo, abbiamo lavorato con la storia della musica, ai più grandi, ai più piccoli, a tutti, perché sai, chi fa il nostro lavoro o hai una passione immensa o non lo puoi fare, perché Leonardo lo sa, perché ci sono dei sacrifici enormi per poter fare questa cosa. Io sono la persona più ferita in questo momento, non puoi capire. La mia delusione, noi quest'anno facciamo zero fatturato, zero, perché noi saltiamo un anno. E teniamo in piedi la nostra struttura, perché la difendiamo con l'unghia e con i denti, in modo più assoluto, sì, come ti dicevo, 30 stipendi tutti i mesi. E non facciamo, io vorrei capire però, Mimmo, ma non alle decine... Sì. No, ma alle facciamo decine... Musica, no, ma rubare, infatti, rubare non è una parola, noi non l'abbiamo mai detto, e c'è alcuni che dicono, truffatore, non è una truffa, cioè è una situazione che non si sa come uscirne, Però Mimmo, alle decine di mail... Sì, alle decine di mail che riceviamo e dicono non vogliamo il voucher, noi che dobbiamo rispondere? Che è così? Cioè è così, purtroppo è così. Oltretutto non siamo soltanto noi in Italia, perché c'è pure la Germania, c'è un altro paese che danno il voucher, come c'è perché l'Italia dà il voucher, va bene, l'albergo dà il voucher, va bene. Ma un concerto è un concerto. Ma ho capito, però Mimmo, tu che lavori da 45 anni lo sai anche te che in albergo puoi andare tra 6 mesi, è lo stesso albergo, ma il concerto di Paul McCartney è il concerto di Paul McCartney. Ma io che amo la musica e soprattutto la musica di qualità, perché noi facciamo musica di qualità, perché da Pink Floyd a McCartney, Rolling Stones e via. Facciamo Clapton, quindi non è che facciamo la musica, poi ti ripeto. Che validità? Per quanto tempo vale il voucher? Questo voucher 18 mesi. Quindi appunto, forse la buona notizia è che c'è la possibilità che torni Paul McCartney l'anno prossimo, insomma, quindi se la validità è questa, sì. La speranza è quella, nel modo più assoluto. Però ti dico pure un'altra cosa. E quelli che non ce la fanno e non possono dare nemmeno il voucher, perché questo non è uno scherzo quello che è successo, ragazzi, e nessuno l'ha chiesto. Non è che abbiamo cancellato noi il concerto, noi eravamo lì pronti. Ma è chiaro, questo sia una situazione... Noi abbiamo iniziato a lavorare un anno prima, noi eravamo già pronti su tutto, e non ti dico che abbiamo speso veramente Ma questo è chiaro che è una situazione che è arrivata, è piombata, ecco, nessuno l'ha voluta. Mimmo, facciamo così, tanto ci risentiamo nei prossimi giorni, perché adesso siamo un po' in ritardo sul traffico. Mimmo D'Alessandro ci ha spiegato che com'è la situazione. Io devo dire, continuiamo a ricevere, ma saranno arrivate già a 100 le mail che tutti dicono la stessa cosa, cioè ho speso tot, non mi interessa il voucher, voglio i soldi. Questa è la situazione, cari ascoltatori. Dopodiché torneremo, anche se di sviluppi a questo punto non ce ne sono moltissimi, no, mi sembra. Però si può dare il consiglio di mantenerlo, perché appunto c'è la possibilità che l'anno prossimo il concerto si faccia. Questo sicuramente sì. Intanto ringraziamo Mimmo D'Alessandro, dobbiamo andare al traffico perché tra poco parliamo di teatri. Abbiamo due direttori di teatri, Milano e Roma, per capire invece lì, Leonardo, sarai interessato anche tu? Bene. Uno, nessuno, 100 Milan. Dite al ristoratore che se prima uno andava due volte a mangiare la carbonara a 10 euro, adesso ci va una volta a mangiare la carbonara a 15 euro. Il gioco è questo. Grazie, buona giornata. State grossi, Non avevo mai sentito la voce della Fusconi, mi sono innamorato all'istante. Eccola là. Ma non sa quante ne fa. Fa stragi così. Beh, ma si vede che non è un nostro ascoltatore, perché Elisabetta interviene spesso. Dovresti ascoltarci di più. Esatto, quindi tiriamo le orecchie, però vabbè, sei innamorato. Ma tanto David da Roma, alle 10.30 lo voglio in onda dopo la borsa, il nostro ristoratore, voglio sentire come stanno, perché i totani ci ha detto a 19 euro, volevo sentire come stanno altri prodotti. C'è Gino da Napoli, buongiorno Gino. Buongiorno dottor Milan. Senta, io volevo farla riflettere su quella considerazione che ha fatto l'ascoltatrice precedente in merito ai 5 euro di alcol in più che gli hanno chiesto una bottiglia di alcol. Io mi sono scandalizzato, però mi scandalizzo anche per un altro motivo. Quando il governo praticamente riconosce agli artisti, che possono sicuramente mettere un piatto a tavola, riconosce un bonus, insomma, non so di che entità. La affido a Leonardo Manera, prego. No, io mi chiedo come fa lei questi ricastri che possono mettere il piatto a tavola. Allora, no, prima di tutto, come diceva prima anche D'Alessandro, quella dello spettacolo è una filiera che occupa 500.000 persone circa. Di queste 500.000 persone, quelle che guadagnano molto saranno lo 0,01%. L'1, mettiamo anche il 2%, vogliamo esagerare. Tutto il resto sono persone che portano a casa, e sia chi fa l'attore normale senza essere famoso, sia chi svolge lavori tecnici, persone che portano a casa uno stipendio assolutamente normale quando ce l'hanno. Ma infatti, quindi non è che tutti sono stramiliardari, è una percentuale veramente minima. No. E glielo garantisco, faccio questo lavoro da 35 anni, conosco bene o male tante persone che veramente in questo periodo fanno fatica a portare un piatto a tavola. Ma guardi, ma infatti credo che sia una rappresentazione del mondo dello spettacolo un po' così idealizzata, ma forse gli ospiti che andiamo a salutare sono due direttori di teatri. A Milano, al Teatro Manzoni, c'è Alessandro Arnone. Buongiorno, ben ritrovato direttore. Buongiorno. E saluto anche a Roma invece Alessandro Longobardi, che dirige Brancaccio, Sala Umberto, Brancaccino e Spazio Diamante. Eccoci qua, buongiorno Longobardi. Tutti gli spettatori e ascoltatori. Allora, Arnone, che ne pensi della rappresentazione dell'ascoltatore, insomma gli artisti che hanno un piatto a tavola? Adesso invece il mondo del teatro piange molto e ha ragione in questo momento. Allora, diciamo che questo è veramente un mal comune che non è mezzo gaudio, siamo tutti veramente a terra, ricordiamoci che i teatri in generale sono chiusi dalla sera del 23 febbraio e non vediamo la luce, perché anche questo nuovo decreto che parla di una potenziale riapertura il 15 giugno è un decreto che ha messo tali e tanti paletti che sarà molto molto molto difficile. Ecco, per esempio, dicene alcuni, perché ieri ne abbiamo parlato, ci sono delle burocrazie, delle burofollie, io le chiamo, ce ne puoi dire tu o tre? Sì, certo. Allora, diciamo le cose positive sono che evidentemente c'è un protocollo da rispettare, che ovviamente è a tutela dei lavoratori del teatro, quindi della sala e degli spettatori, che assolutamente rispetteremo, è molto dettagliato, ma anche noi abbiamo stiamo preparando, abbiamo preparato un protocollo per cui su questo sarà faticoso, ma lo rispetteremo. Il vero problema è il limite che è stato imposto alla presenza in sala, perché si parla di 200 persone massimo, indipendentemente dalla capienza della sala teatrale, che vuol dire che 200 persone vale per chi ha una sala da 400 posti, a Milano ce ne sono, o per chi ha una sala da 2400 posti, e a Milano ce ne sono. È evidente che riempire al 50% o al 6% la sala ha delle ripercussioni economiche drammaticamente differenti, ma ancora di più, se posso permettermi, nelle 200 persone che sono ammissibili ci sono dentro gli attori, i tecnici della compagnia, i tecnici del teatro, le maschere, il personale di pulizia del teatro, il personale stesso del teatro, per cui alla fine sì, abbiamo fatto una piccola simulazione che forse potremmo far entrare 150-160 persone. Ma è abbastanza, sì, è molto complicato. A questo punto un teatro come il Teatro Manzoni non ci sta dentro, sì, come spesa, che ha 830 posti, ma sì, insomma 130 persone, insomma che spettacolo è. Vorrei capire se anche a Roma la situazione ovviamente è uguale. Da Alessandro Longobardi, tra l'altro si dice anche 15 giugno, ma il 15 giugno le stagioni teatrali sono di fatto finite, ma condivide anche le preoccupazioni di Arnone al Manzoni? Sì, assolutamente. Il teatro privato, le imprese culturali private, soprattutto quelle escluse dal FUS, Fondo Unico dello Spettacolo, sono in ginocchio e diciamo che sono anche in una crisi di nervi, perché la cosa più importante per un'impresa per fare progettazione è avere un riferimento temporale. Al di là dell'aspetto economico gravissimo, ma è ancora più grave non sapere quando poter ripartire. Quindi la data del 15 giugno è esclusivamente un riferimento per le attività estive, dove si prevedono fino a 1000 posti, diciamo, comprese anche le maestranze e gli attori. E quello ancora può essere un riferimento utile. Quindi festival possono aprire, alcune iniziative all'aperto possono essere eseguite. Ma il teatro ha bisogno, al chiuso, ha bisogno di un progetto serio, perché lavora con almeno 4-5 mesi di anticipo. Almeno. Quindi io per programmare quattro sale devo sentire tutta Italia, cioè tutte le produzioni, le mie produzioni che vanno in tutta Italia, devono, c'è una, come dire, incontro di coincidenze molto complesso, opzioni prese, attori da scritturare, tecnici importantissimi, perché senza tecnici non si muove lo spettacolo, e tutto quello che poi è la parte marketing. Allora, un teatro quando apre annuncia una stagione, ma l'annuncia con largo anticipo, perché sennò non arriva il messaggio agli spettatori. E ricordiamoci, il teatro è un ben immateriale, il che vuol dire che è un po' come, so, il latte fresco, se non lo bevi subito poi lo butti, e allora tu non puoi improvvisarti. No, è chiaro, qui c'è non so, Leonardo Manera da mesi ci sta dicendo che c'è stata anche una disattenzione, forse un approccio culturale, al di là della frase, Leonardo, che credo a te non abbia dato così tanto fastidio come a molti altri il mondo dello spettacolo, la frase di Conte, grazie agli artisti che sono qui per intrattenerci, no? Che sto, ha detto, no, diciamo, è suonata un po' come una carezza ad un mondo minore, e invece poi insomma non è così di fatto, e la dimostrazione ce l'abbiamo avuto vedendo tutti i contributi che sono stati creati e visti in televisione piuttosto oppure sul web. Non so. Quindi lo spettacolo è una parte, io credo, integrante della vita di chiunque, in qualsiasi modo ne venga fruito, posto che secondo me il modo migliore è fruirne proprio a teatro. Questa è la mia idea personale. E questa giustamente è un'idea che io condivido. Vorrei capire da Alessandro Arnone e Alessandro Longobardi, e inizierei da Arnone, se vi siete sentiti trascurati, userei questa parola. Beh, evidentemente sì, siamo stati i primi a chiudere, ricordo la storia del 23 febbraio, saremo gli ultimi a riaprire, e ancora abbiamo, come accennava Alessandro Longobardi, un'incertezza normativa totale, per cui è veramente difficile programmare la prossima stagione. Noi a maggio al Teatro Manzoni eravamo abituati a mandare ai nostri 4.000 abbonati il programma della stagione successiva. Cosa facciamo? Cosa gli diciamo? Non sappiamo neanche se potremo ospitarli. Come facciamo a ospitare 4.000 abbonati che erano distribuiti su 2 settimane di turni se possiamo diciamo avere a disposizione solo un quinto della sala? Quindi è evidente che siamo assolutamente fermi, perlomeno fermi nei confronti del nostro pubblico. In realtà stiamo lavorando, perché anche qua, come accennavo, citava prima Longobardi, ci stiamo muovendo anche per capire che tipo di spettacoli potremmo mettere in scena, perché poi l'altro problema è il palcoscenico, perché anche sul palcoscenico ci saranno tutta una serie di regole da rispettare, quindi certo, pensate a una compagnia dove si muovono esatto. 4-5 persone sul palcoscenico, che succede? Si è parlato di mascherine, gli attori con la mascherina, esatto. Noi a novembre avevamo uno spettacolo di prosa che prevedeva 20 attori in scena, è evidente che io non potrò proporre quello spettacolo, dovrò sostituirlo con qualcos'altro, ma non so ancora come e cosa, perché non abbiamo ancora delle regole chiare. Tanti bei one man show, tanti stand up comedian di Leonardo Manera, io propongo questo. No, vorrei chiedergli anche una cosa ancora ad Arnone, so che c'è una burofollia italiana per cui i teatri che hanno dai 500 posti in su devono pagare una quota per i vigili del fuoco, la legge lo prevede. Ora, siccome potrete tenere 200 persone all'interno della sala, il vigile del fuoco non lo pagherete più, immagino. Allora, questa è una bella domanda, perché per logica anch'io ero arrivato a questa conclusione, ma mi hanno smontato dicendo che proprio per l'effetto della burocrazia, siccome la sala è comunque una sala superiore ai 500 posti, io dovrò prevedere comunque i vigili del fuoco, che peraltro non solo devo pagare, ma la squadra dei vigili del fuoco mi farà diminuire ulteriormente la possibilità di fare spettatori in sala. Certo. Longobardi, com'è la situazione a Roma? Perché quattro teatri, Brancaccio, San Umberto, Brancaccino, Spazio Diamante, saranno diverse capienze, diverse situazioni, c'è da avere la burocrazia per quattro da tenere sotto controllo? Sì, diciamo che non è solo un fatto di burocrazia, diciamo che abbiamo anche le nostre forze responsabilità, il fatto di essere invisibili, no? E quindi di essere stati un po' trascurati dipende anche un po' dalla capacità nostra di farci conoscere meglio, quindi di dialogare con il mondo politico e con le istituzioni. Probabilmente c'è una mancanza di unità che noi in questo momento stiamo perseguendo attraverso delle azioni di solidarietà e quindi di aggregazione. Abbiamo costituito su Roma l'Unione Teatri di Roma, che finalmente aggrega circa 40 sale su Roma, e ha aperto un dialogo con la Regione Lazio che si è mostrata sensibile. Certo, le risorse per le regioni sono estremamente limitate, comunque è un passo in avanti. E a livello nazionale abbiamo aperto un coordinamento del teatro privato italiano che cerca di unire le tante rappresentanze, quindi non si vuole sostituire ma vuole aggregare e vuole aprire un dialogo. Questo consentirebbe e consente, anzi sicuramente, di essere più chiari e ascoltati. Vedo che il problema principale in questo decreto è che hanno esteso gli ammortizzatori sociali fino al 31 di agosto. Io mi domando, senza riferimenti temporali di riapertura, perché la riapertura ufficiale dovrà essere definita, per esempio in Germania hanno fissato il 1 dicembre e meno male, e quindi si possono organizzare. Sì. Non solo poi un'apertura, ma le condizioni per aprire. Io credo che il Comitato Tecnico Scientifico dovrà incontrare noi per capire realmente come funziona il nostro sistema, perché quando vengono fuori certi provvedimenti, da lì intuisco che c'è un'assenza proprio completa di come funziona il nostro lavoro. E ci sono delle strade per favorirlo. Sì, allora, io nel per ora ringraziarvi, Leonardo, un po' di qui l'amarezza la metto io, di solito la metti tu, però devo dire che in solidarietà metto tanta amarezza. È vero che il signor coronavirus nessuno l'ha richiesto, è arrivato, però è anche vero che ci vuole un po' più di programmazione. Forse in questo paese non siamo abituati tanto a programmare, qui si vede anche sulla ripresa dei teatri, o no? Ma io credo che la cosa importante sarebbe prima di tutto essere considerati importanti come le persone che fanno altri lavori, perché se un'azienda occupa 50.000 persone la si tiene bene in considerazione, se il mondo dello spettacolo ne occupa quasi 500.000 però viene sempre visto come una cosa che sì, in fondo dai, se ne può fare a meno. Sai cosa ci vorrebbe? Un bel cardinale attore, ecco, se diciamo fosse un bel cardinale attore, secondo me si riuscirebbe a avere più forza, più pressione politica. Va bene, noi ringraziamo Alessandro Arnone, direttore del Manzoni a Milano, Alessandro Longobardi, direttore di Brancaccio San Umberto, Brancaccino e Spazio Diamante a Roma. Andiamo a sentire la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta State ascoltando un programma offerto da... Cerchi un software per analizzare, simulare e pianificare? Vai su board.com. Uno, nessuno, 100 Milan. Ma Milan, ma uno che spende 2200 euro per un concerto, ma li può anche regalare. Ma con un voucher da 2200 euro che problema c'è? Uno si può vedere 100 volte Achille Lauro. vabbè. Allora, devo dire, Leonardo, mi dicono, leggi gli sms, eccoci qua, leggo gli sms. Primo, ci stanno non riversando di tante, ci stanno sommergendo di mail, ma ripeto, sono arrivate almeno già 200, non scherzo, mail sulla vicenda Paul McCartney. La gente è infuriata, e questa cosa del voucher non la manda giù, dicono che è un'opzione, non un obbligo, come ci ha detto Mimmo D'Alessandro. Noi torneremo, ovviamente si parla di class action eccetera, è chiaro che è una situazione, è partita da una mail di un ascoltatore, no? Che lui ha speso 2200 euro, amico mio, però ha speso 2200 euro per tre biglietti per portare la famiglia, ma uno sarà libero di, come ci ha raccontato ieri, di fare il regalo della vita, che per lui era il regalo della vita alla famiglia. Non vedo perché, se vuole far beneficenza la farà, ma non vedo perché debba, come dire, buttare via 2200 euro. E poi chi ci chiede, e la Scala, le fondazioni liriche? È vero, c'è il tema delle fondazioni liriche, insomma, sono sì, tante le categorie che vorremmo rappresentare. Sì, sì, poi ci saranno gli unici, diciamo, che potranno andare avanti un po' più facilmente, sono probabilmente quelli che ricevono i contributi, come si diceva prima, del FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo. Sì. Ecco, esatto. Meno problemi. Avremo un po' di soldi. Comunque, la questione di McCartney, noi torneremo a parlarne. Adesso abbiamo sentito un po', ecco, non è che possiamo rappresentare le posizioni di tutti coloro che hanno comprato un biglietto, tanto sono più o meno simili. Ieri l'ascoltatore che li rappresentava, che ha lanciato questa tematica, oggi abbiamo avuto il promoter, forse sentiremo, magari non so, l'avvocato che li rappresenta, perché molti vogliono fare una class action. Effettivamente molti dicono sarebbe un gesto da signori, e si chiedono anche, ma se tra 18 mesi questi voucher non vengono utilizzati, ma i soldi per un evento che non c'è stato, chi se li tiene, i soldi spesi? Sono tutte domande che giustamente uno io ho proposto, però adesso non so se hai visto la mia proposta di andare alla fonte a sentire direttamente McCartney cosa ne pensa. E infatti, ecco, è una sfida, Luchetti, che volevo lanciare anch'io, se fosse ancora vivo, perché sapete che c'è la leggenda, no dai, questa l'ho detta già ieri, prova a sentire Miriam, Luchetti, se Paul risponde. Sì, se avessimo una redazione efficiente, potrebbe provare a contattarla. Esatto, mica queste robe, una vera sfida, Luchetti. Hi Paul, sentiamo un po', magari gli strappiamo in diretta se torna o no. E invece ci accontentiamo, altro che di Paul McCartney, di Anacleto. Eccoci qua. Buongiorno. A tutti i ascoltatori, e viva, e saluto tutta la chiesina, e viva la chiesina, lo sai, no? Certo, e viva la chiesina, sempre, certo. Uno chiede Paul McCartney e si ritrova Anacleto. Anacleto, come stai? Tutto bene? Io sto bene, sono qui davanti alla banchina perché c'ho da andare a piolare qualche soldo, perché sono spento. Poi vado dal mio amico Alberto Lupoli, che oggi si mangia nell'orto di casa sua, ha acceso il forno a legna, sicché il coniglio... Oggi di più del Mozambico, vino, di più pollo. Del Mozambico, cioè la riapertura alla chiesina. Voi vi immaginate gente che i bar sono riaperti adesso? Cioè, sì, basta, Anacleto, hai cambiato faccia e voce. Sì, sai, sono un po' emozionato, abbi pazienza, sentivi sempre voi. Niente, ora mi scappa il direttore, ci avrei da fare una domanda. Chi è il direttore? Sì, il direttore della banca, e ora mi scappa, l'accompagno, la prendiamo un caffè. No. Avete sentito? Ha visto Anacleto? Ha detto no, per carità. Ha mal visto Anacleto? Il direttore della banca ha visto Anacleto? Ha detto no, per carità. Cioè, questo mi chiede soldi. Ma che secondo, era un mio amico qui. Anacleto, quanti soldi? Ma quanti soldi devi dare alla banca? Tu, porca miseria, è vero. Se ce n'hai, ma Paul McCartney dov'è? A Lucca? a cantare. Doveva venire a Lucca, è stato sospeso. Tu sei contento? Sei dalla parte di coloro che dicono non me ne frega niente di un voucher? Io non sono nulla, ma se dai soldi a lucchesi te non li rivedi più, te lo dice Paolo Del Nero, resta a me. No, aspetta, puoi mandare chi ti pare. Soldi a lucchesi, bravi, per l'amor di Dio, ma mi dai soldi prima che tu li riveda? Lo sai quando lo farà il concerto Paul McCartney? Tra 6 anni lì. Aspetta, Anacleto, che abbiamo trovato un altro nostro mito. Io voglio sapere, aspetta, è tornato con noi David da Roma, ristoratore, che ci ha lasciato con la carbonara prima a 15 euro. David, eccomi. Come eccomi va? Qua. Stai fatturando ancora? No, sono uscito da là, che poi, mamma mia, un mare dei guai. Io dicevo, comunque sono aumentati anche tantissimi i prezzi, sono veramente aumentati tantissimo. Ed è calato il prezzo del takeaway. Io faccio una pasta a portar via oggi a 5 euro perché tutti quanti, pure i bar, sono messi a fare le paste a portar via. Certo. E quindi è calato. E automaticamente, avendo meno posti, dentro di una carbonata tu fa pagare. Anche perché, ti ripeto, quella c'ha la maschera. E poi una cosa importante che nessuno l'ha pensato, che è aumentata la professionalità. Cioè, io prima c'avevo mano d'opera dentro al ristorante, no? Oggi quindi dovevo lavorare professionista perché deve capire enorme. Deve capire bene come funziona il camminare. Poi c'è la sanificazione, ti costa la sanificazione? Sì, la sanificazione mi costa, io me la faccio da solo con tutti i prodotti, però la ragazza ci mette quasi 2 ore alla mattina, quindi se prima attaccavi alle 10, ora sto a farvi venire verso le 9, con un'oretta deve pagare. No, ma son costi. Qual è? Vabbè, cosa va adesso? Carbonara, gricia? Poi allora, diciamo che la gente, ci stanno quelli, diciamo, super che stanno bene, che alla fine non gli è cambiato davvero niente. Io ho fatto dei menu routine dove la gente può mangiare a poco prezzo tutti i giorni. Non voglio dire che sono tipo un po' a Caritas, io sono una trattoria un po' deborgata, quindi cerco, non so, poco clienti, ma sono amici e quindi cerco da stare un po' a prezzo. Fatti bene pubblicità, Davide, dici dove sei, fatti pubblicità. No, qui era voglio... 24. No, ti autorizzo io. Ti autorizzo io. Che trattoria sei? Dove sei? In che via? No, forza. Io sto in via Trionfale, davanti proprio al San Filippo Neri, si chiama Terra Matta. Qual è il piatto peggiore, quello che sconsigli ai tuoi clienti, quello che ti viene peggio? Oggi no. Oggi faccio pasta chitotini che ho pagato un botto, ho pagato 19 euro, infatti mo gli sto a far gonfiare in acqua perché sennò non ci arrivo col prezzo. Gonfiare in acqua, cioè che vuol dire? Li fai gonfiare e poi dopo perdono acqua nella pasta. No, certo, è un modo per dire, nel senso che comunque sto cuocendo i totani. Oggi abbiamo totani e pomodorino fresco, abbiamo uno spaghettino. Stupendo. E cerco da star presso un po' tutti quanti. Comunque io oggi una pasta di totani la sto a fare 10 euro. Spero da farne almeno, non ne so, una ventina per entrare almeno dei totani, anche se i totani. Terra Matta, via Trionfale, andate lì, c'è Davide. Hai sentito Anacleto? Oltre Mozambico, pasta con i totani. Anacleto, basta, è svenuto. Non ti ho sentito. Col direttore di banca. Stai litigando col direttore. Esatto, stai litigando per il mutuo. Niente, sta litigando col mutuo. Vabbè, niente, dai, salutiamo allora David da Roma. Allora, Terra Matta, andate in via Trionfale. David, ti chiamiamo nei prossimi giorni. Mi sei simpaticissimo, voglio sentire come va. Grande, torna a fatturare, che questa è la cosa più importante. Andiamo a sentire il traffico e tra poco un pacco per lo spirito. Torna, sono contento che molti stiano già ricevendo il loro pacco, il loro pacchettino. E Leonardo ci spiegherà con un ospite tutto quanto. Uno, nessuno, 100 Milan. We will work for that, but in this moment we are all in the same battle, we are fighting the same powerful and invisible enemy. All countries in the world are hit and we are all in front line. Il Premier Conte, caro Leonardo. È lui un imitatore. È lui. È davvero perché lui. Era un consesso internazionale e un po'. Ma anche il tono sembra un po' diverso dal solito, devo Senti dire. Senti un po', rimandalo, Carmelo. We will work for that, but in this moment we are all in the same battle, we are fighting the same powerful and invisible enemy. All countries in the world are hit and we are all in front line. Ho capito. Perché prendi in giro il tuo presidente, no, del Consiglio? Sembrava attenzione. Un po' diverso. La nostra Miriam Luchetti ci prende in giro dicendo che certo che ce l'ha in rubrica il numero di poll sotto quello del Dalai Lama. Del Dalai Lama, vabbè, vabbè. Allora, caro Leonardo, a te la spiegazione dell'iniziativa Un pacco per lo spirito. Allora, io insieme a Laura Magni abbiamo pensato a questa iniziativa, si chiama Un pacco per lo spirito. In cosa consiste? Chiediamo alle persone di mandarci un messaggio, preferibilmente in audio, o alla pagina Facebook Un pacco per lo spirito, oppure alla mail Un pacco per lo spirito @gmail.com, dove ci dite, ci raccontate in pochi secondi perché per voi lo spettacolo è importante, un episodio in cui per voi è stato importante vedere uno spettacolo. Noi in cambio vi mandiamo un pacco per lo spirito, cioè un video dove c'è il contributo di alcuni comici, alcuni attori, anche musicisti ci saranno, dove vi facciamo questo regalino e vi mandiamo il nostro grazie per esservi espressi nel mondo dello spettacolo, riguardo al mondo dello spettacolo, nei nostri confronti. Quindi notate, è una come cosa... abbiamo detto, un messaggio breve se possibile, perché lo vedo borbottare, pesa il messaggio di 2 minuti, che palle. Ricordo solo breve. La pagina, che è Un pacco per lo spirito su Facebook, oppure Un pacco per lo spirito @gmail.com. Però siccome appunto anche prima si pensava che tutti gli artisti siano persone straricche, famosissime, invece è fatto da tante persone, ne abbiamo qui uno. Un ricone, Francesco Rizzuto, buongiorno. Sono ricchissimo. Grande Francesco, tu aderisci a questo Un pacco per lo spirito? Sì, aderisco a questo Un pacco per lo spirito, raccontando un aneddoto. Francesco, tra l'altro, sì, è un comico molto bravo che magari non è, diciamo, universalmente conosciuto, però fa questo lavoro da anni e quindi rientra appieno nella categoria, sì, che ho definito prima. È una categoria nella quale molti di noi fanno gavetta, fanno anche serate faticose, e non so se tu vuoi raccontarci per esempio un episodio di qualche serata particolare. Allora, io sono di origine palermitana, vivo a Milano, spesso in Sicilia ho fatto degli spettacoli, a Zelig facevo il vigile palermitano e mi chiamarono a Contessa Entellina, in provincia di Agrigento, dove è l'unico paese in Europa famoso perché tutto il corpo dei vigili è costituito da donne, quindi dal comandante, perché gli uomini non erano in grado di fare le multe agli amici, quindi hanno messo le donne. Quando sono arrivato ho visto tutte queste donne vestite da vigilesse, abbiamo socializzato il pomeriggio, la sera salgo sul palco e io apro lo spettacolo dicendo: bella, Contessa Entellina, oggi pomeriggio sono arrivato presto, sono stato nel comando dei vigili e ho conosciuto tutto il corpo delle vigilesse. Nel gelo più totale. Poi ho iniziato i mariti, i fidanzati ti volevano aggredire. Quando è finito lo spettacolo, il sindaco ha detto che aveva messo i cartelli su tutta la città con la scritta direttamente da Zelig. Zelig, perché giù al sud Zelig diventa Zelig. Mi ha messo la mano sulla spalla: bello spettacolo, bellissimo, Francesco, ci hai divertito, però il corpo delle vigilesse, minchia, c'è pure mia nuora lì. Non è stata proprio una battuta felice. Dopo 2 ore di spettacoli, l'unica cosa che ti ricordava era del corpo, della vigilanza. Questo è uno dei tanti episodi che noi comunque comici spesso dobbiamo affrontare quando ci sono situazioni un po' particolari. Uno particolarissimo... Sì. No, dimmi Francesco. Uno particolarissimo è stato in un paese in cui non dico il nome. Ho scoperto soltanto prima di salire sul palco, prima di parcheggiare la macchina, che quel paese era stato sciolto per mafia e che il sindaco aveva costituito un comitato e quello spettacolo era offerto da lui. E quando vidi che nella piazza non c'erano le sedie, noi comici, se abbiamo il pubblico seduto, abbiamo più attenzione, si crea un'atmosfera diversa. Io chiesi, mi avvicinai alla persona che stava montando il palco e gli chiesi: scusa, ma le sedie le mettete dopo? E lui mi ha detto: le sedie, io il palco l'avevo montato in un'altra piazza, l'ho trovato ora qui, lo sto finendo di montare. Vabbè, ragazzi, ma anche Leonardo, infatti, ci racconta che ci sono luoghi dove insomma uno pensa di andare solo a fare lo spettacolo, ma porta con sé un bagaglio di esperienze umane, mettiamola così. Allora io racconto velocemente questo episodio che mi capitò davvero, non dico dove, ma insomma c'era il palco e l'avevano montato davanti a una fontana enorme, ma veramente molto grande e rumorosa, tra l'altro, che rimaneva in funzione. Le sedie erano dietro questa fontana enorme. Io ho detto: guarda, lo spettacolo così non si può fare, perché non lo faccio per il pubblico, lo faccio per la fontana. L'organizzatore ha aperto leggermente la giacca, mi ha fatto vedere una pistola e mi ha detto: lo facciamo. Io ho detto: subito, faccio subito. E Leonardo ha detto: io amo le fontane, amo le fontane. A me in Calabria è successo che mi hanno montato il palco davanti al palo della luce. Proprio nel centro palco c'era il palo della luce. E quando io ho chiesto agli organizzatori perché, fa a freddo, perché lo spettacolo più non lo organizzavano altre persone. Stupendo, stupendo, va bene. Allora, Francesco Rizzuto, come tanti altri artisti, fa parte di questa iniziativa Un Pacco per lo Spirito. Io lo ricordo, mandate la mail a unpaccoperlospirito@gmail.com oppure la pagina Facebook Un Pacco per lo Spirito. Dite perché per voi è importante lo spettacolo e vi arriverà questo pacchettino, magari firmato da Francesco Rizzuto, chi lo sa, o da Leonardo Lento Pene Manero, chi lo sa. Grazie Francesco, un grande abbraccio e, che dire, Leonardo, ci fermiamo qui e ci troviamo domani. Beh, oggi puntata dedicata allo spettacolo, quindi allo spettacolo, bene. Speriamo che tutto si risolva. Sì, no, speriamo che alla fine tutto si risolva come nelle tragedie greche, con un Deus ex machina che arriva e risolve tutto. A domani.